Il cibo del futuro e il futuro del cibo. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Gli orti verticali, mi viene in mente qualcosa che vai su con gli scarponi chiodanti, poi ci sono delle cascate di pere. Sì, poi adesso vanno tanto di moda gli orti verticali. Sì. Però invece quello che vogliamo raccontarvi noi è un po' diverso, è il frutteto in parete. Frutteto in parete, partiamo. Ancora più difficile. Ci sono un paio di campi sperimentali della Fondazione Edmund Mac di San Michele all'Adige che stanno proprio sperimentando il frutteto verticale, che è un po' diverso dall'orto verticale come noi lo intendiamo. Sì, poi è un progetto industriale, cioè voglio dire, non è una roba per sì, sì, privati. Certo, non è un orticello, questo è da dire. Allora, intanto diamo il benvenuto qui a Foodlab ad Alberto Dorigoni. Un saluto a tutti. Benvenuto, Dorigoni. Lei lavora appunto ricercatore all'Istituto Agrario della Fondazione Edmund Mac e, come dicevamo, avete un paio di campi sperimentali lì in zona dove state provando a coltivare le mele, le pere, adesso ce lo dirà, verticali. Che cosa significa in parete? Esatto, noi utilizziamo prevalentemente il termine frutteto in parete o muro fruttado alla spagnola. O in bello muro fruttado. Ma di fatto noi abbiamo queste due aziende sperimentali in cui negli ultimi 10-12 anni ci siamo concentrati molto sulla forma di allevamento della pianta, perché consideriamo che la forma di allevamento della pianta è uno snodo che condiziona tutta l'agrotecnica, cioè tutta la tecnica di coltivazione. Lavoriamo prevalentemente sul melo, ma anche un po' sul pero, però diciamo che i concetti che stiamo applicando al melo e al pero si possono estendere anche alle altre piante da frutto. Ecco, ma se fossimo lì in uno di questi vostri frutteti, cos'è che vedremmo di diverso da un frutteto normale? Allora, mentre in un frutteto normale vediamo che ogni singola pianta sostanzialmente ha una sua identità, assomiglia a una specie di albero di Natale con uno sviluppo abbastanza rigoglioso, con una forma conica, nel nostro frutteto vedreste sostanzialmente una parete che, come dice il termine stesso, rappresenta un continuum, un qualcosa che quasi non ha interruzione. Direi che assomiglia molto a quello che l'esperienza della gente comune può definire una siepe e che ha dimensioni molto contenute, sia per lo spessore, 40, 60, 70 centimetri massimo, che anche dell'altezza. Progressivamente ci stiamo abbassando a pareti che sono state definite semipedonabili. Ah, quindi ad altezza d'uomo quasi. Esatto, cioè il frutteto pedonabile è uno dei diciamo dei prodotti di questo sistema, è un frutteto dove l'operatore può raggiungere la cima della pianta. Tutto con le sue mani. Ma sono dei filari di pareti praticamente. Ecco, per dare un'idea che tutti hanno abbastanza presente girando anche nelle autostrade, in macchine eccetera, pensate ai vigneti, a una certa tipologia di vigneto moderno che praticamente è dato da tante file strette e basse, ecco. Non è banale. I nostri frutteti, spesso chi viene a vedere dice: ma cos'è, un vigneto? E scusi, quali sono i vantaggi? Perché chiaramente se li state studiando i vantaggi ci saranno. I vantaggi sono veramente molteplici, perché in questo tipo di frutteto innanzitutto è tutto a portata di mano. Non dobbiamo arrampicarci, diciamo, sulle scale, usare i carri raccolti. Quindi per i raccoglitori, diciamo, è più sicuro. Sì, c'è un discorso di sicurezza, ma teniamo presente che in realtà non c'è solo la raccolta, c'è la potatura, c'è la manutenzione in generale, il dirado dei frutti. Tutte queste operazioni normalmente richiedono un carro o una scala. E questo si riduce, cioè fa ridurre chiaramente anche i costi, oltre alla sicurezza, come avete giustamente fatto notare voi. Ma poi ci sono altri vantaggi legati al fatto che questo tipo di struttura di pianta si presta molto alla meccanizzazione. Ci sono diverse operazioni che si possono meccanizzare. Prima tra tutte direi la potatura. Cioè lei dice tra i filari potrebbero entrare, diciamo, delle macchine che fanno velocizzare un po' il processo. Esatto, fanno una prepotatura. E lo stiamo facendo oramai da anni con ottimi risultati. La fondazione ha pure brevettato una macchina che ho inventato 4-5 anni fa, che opera come delle finestre di taglio all'interno di queste pareti. Ecco, poi non più tardi di qualche mese fa in un convegno negli Stati Uniti, in Michigan, è stato presentato un prototipo di raccolta robotizzata che oramai incomincia a essere veramente molto vicino a una realizzazione pratica, e si è detto subito che questo tipo di raccolta robotizzata potrà lavorare soltanto su un frutteto in parete. Ah, ok, certo, se gli alberi non sono tutti sparpagliati, ovviamente il robot si riesce a passare, si muove in maniera lineare. Deve essere quasi una pianta bidimensionale. E poi c'è anche meno manutenzione dal punto di vista, come dire, dell'impiego dei fitofarmaci, della chimica? Esatto, direi che questo è un altro settore estremamente importante, perché un po' in tutto il mondo, noi magari ancora di più nella nostra regione, abbiamo uno stretto legame tra l'agricoltura da una parte e il turismo dall'altra. Allora, è chiaro che se io devo trattare con un atomizzatore che deve sparare a 4,5 metri di altezza il prodotto, è chiaro che io vado a creare una nuvola di materiale che si disperde mm-hmm. nell'ambiente, quello che chiamiamo normalmente col termine di deriva. Ecco, invece in questi frutteti che sono alti 2,5 metri, è chiaro che l'atomizzatore non deve sparare tanto in alto. Addirittura possiamo utilizzare degli atomizzatori a tunnel che, per così dire, abbracciano il filare, lo scavallano, un po' come avete presente quando si va a lavare le macchine con gli spazzoloni. Ah, ok. Una cosa del genere, passa sopra il mio filare e lo percorre per tutta la lunghezza spruzzando dall'esterno all'interno. E quindi con un risparmio proprio di quantità. Che in effetti abbiamo un risparmio che è di circa un 35% di prodotto. Aspetta, quindi anche una minore dispersione nell'ambiente. E certamente una minore dispersione. Va bene. Grazie davvero Dorigoni, buon lavoro e buona ricerca. Grazie a voi. E questo era Food Lab di oggi.